Nova Lab 24. Nova Lab 24. La voce dell'innovazione. Buon pomeriggio, 16:32 minuti, Luca Tremolada, Sandro Mangiatera, buongiorno. Buongiorno a tutti. Oggi raccontiamo la storia di un ingegnere del primo spin-off del Politecnico di Milano che insomma ci guarda dall'alto, controlla le distanze dai tetti e riesce, addirittura ha venduto dati agli americani su Haiti, per cui insomma una storia che intreccia le capacità del satellite di guardare per terra, i disastri idrogeologici, insomma una storia interessante, però prima le news. Tutto pronto per la presentazione del nuovo prodigio di Steve Jobs. Tra poche ore la tavoletta dei miracoli, come è stata soprannominata a San Francisco, salirà sul palco dello Yerba Buena Center. Dopo settimane di indiscrezioni, sarà il capo della Apple a svelare quello che ha confidato ai suoi amici essere la cosa più importante che abbia mai fatto. Le ultimissime indiscrezioni? Il tablet di Apple costerà $999, 499 con l'abbonamento a Verizon, l'operatore di telefonia americano, non compatibile con le reti europee. Per ora nessun problema per Android in Cina. La Repubblica Cinese ha cercato oggi di dissipare le preoccupazioni su eventuali limitazioni alla diffusione della tecnologia Android di Google per i cellulari, mentre le associazioni settoriali americane hanno invitato Washington a prendere iniziative per contrastare le allarmanti misure contro le società straniere high-tech nel paese asiatico. Fare ricerche su internet può mantenere il cervello allenato più che leggere libri, anche in persone anziane e a rischio Alzheimer. Lo afferma una ricerca che sarà pubblicata sul Journal of Geriatric Psychiatry. Un team di ricercatori dell'UCLA ha sottoposto soggetti tra i 55 e i 75 anni a due esperimenti. In uno dovevano leggere un libro, nell'altro dovevano fare delle ricerche su internet. Nel secondo caso, gli stimoli al cervello erano maggiori. Tra l'altro, se c'è una persona che non è interessata al tablet di Steve Jobs, ce l'ho davanti, che è Sandro Mangiatera, che no, assolutamente... Ma... Diciamo che non sono proprio ipertecnologicizzato, sì, diciamo che tutto, però sono molto curioso, anche perché ho visto, ho leggiucchiato, che il prezzo di questa diavoleria è molto accessibile. Non so se tu ne sai qualche cosa. No, sappiamo nulla. Noi abbiamo Antonio Dini là a San Francisco. Ma io ho sentito intorno ai 1000 euro, può essere? Sì, può essere. E quindi io pensavo che costasse di più, insomma, pensavo che... Oddio, poi invece... magari stasera 2000 euro o qualcosa, certo, di... vedremo. Però insomma, vediamo di capire invece chi abbiamo qui. Noi abbiamo Alessandro Ferretti, amministratore delegato della TRE, dico bene, buongiorno. Buongiorno a tutti. Che è il primo spin-off del Politecnico. Compie 10 anni... Tra poche settimane, mi pare di capire. Il 14 marzo. In assoluto il primo spin-off del Politecnico. E TRE, che vuol dire Telerilevamento Europa. Vediamo, e adesso cerchiamo di capire di che cosa si tratta. Individuare lo spostamento del terreno di un millimetro da 800 km di altezza. Non è un gioco, ma la tecnologia messa a punto dalla 3, Telerilevamento Europa, di Milano. Alessandro Ferretti, 42 anni, ingegnere elettronico, studia quella che viene chiamata interferometria, vale a dire l'osservazione del territorio attraverso i radar installati sui satelliti, da quando frequentava le aule del Politecnico. Da qui, 10 anni fa, è nata 3, il primo spin-off dell'Ateneo milanese, che oggi fattura 5,5 milioni, ha 28 addetti e una filiale in Canada per seguire i clienti del Nord America. Controllo delle aree ad alto rischio idrogeologico, monitoraggio delle costruzioni, persino ricerca di giacimenti petroliferi. Ferretti, che di TRE è amministratore delegato, è convinto che le potenzialità di sviluppo della sua società siano altissime. Non a caso, nel 2009, i ricavi sono cresciuti del 34%. Allora, cioè, lei sostanzialmente che cosa fa? Misura la distanza dal satellite al tetto dell'edificio. E... Sì, l'idea di base è molto semplice, perché il radar, lo sanno tutti, misura le distanze. Ci sono dei radar che sono montati su sensori satellitari. Il sensore satellitare ha una certa orbita e quindi è possibile, per esempio su Milano, ritornare dopo un mese e rimisurare la distanza fra il sensore e i tetti delle case. Quello che facciamo noi, detto in due parole, è semplicemente confrontare la distanza fra il sensore e il tetto della casa nel tempo. Tutto qui. Quindi voi confrontate immagini scattate dal satellite, per esempio a un mese di distanza l'una dall'altra, e vedete se ci sono delle diversità e quindi degli spostamenti nel terreno, nei muri, nel territorio, insomma. Assolutamente sì, diciamo che non sono propriamente foto, perché diciamo il radar lavora in un altro dominio, però di fatto le nostre immagini sono assimilabili a foto. Quello che abbiamo in più è che per ogni pixel della nostra foto abbiamo una misura di distanza appunto fra l'antenna e l'oggetto al suolo. Cioè, quindi sostanzialmente voi riuscite a capire se la casa sta sprofondando, cioè se c'è un si sta aprendo una voragine, se lentamente sta succedendo qualcosa, perché noi... Se c'è una frana, e infatti questo mi sembra un impiego soprattutto alla luce dei fatti di cronaca di questi ultimi mesi, cioè voi riuscite a prevedere una frana? Allora, prevedere è una parola molto pesante. Diciamo, noi siamo ingegneri, quindi il nostro compito è fornire dati di spostamento. Poi saranno i geologi e i geofisici che dovranno dire se questo numero effettivamente è un presagio, un preludio di qualcosa di brutto o meno. Ecco, per esempio su Giampilieri, sappiamo tutti cosa è successo, diciamo, nel Messinese, abbiamo fatto un'analisi storica con dato già disponibile dal 1992, quindi andare a vedere a ritroso nel tempo che cosa si muoveva. L'analisi è stata senza dubbio interessante. Adesso questi dati sono oggetto di indagine e di interpretazione da parte di un team di geologi a Firenze. Comunque Ferretti, mi pare di poter riassumerla così, insomma, al di là delle tecnicalità, la tecnologia disponibile oggi consente un monitoraggio del territorio e quindi anche dei dissesti del territorio con una precisione addirittura al millimetro, è così? Allora, per certi versanti sì, sicuramente sbaglierei a negare questo. Sicuramente ci sono delle tipologie di spostamenti che noi vediamo meglio e altre meno. Però per dirla in parole semplici, bisogna partire da quello che abbiamo oggi. Quindi noi stiamo lavorando per il Ministero dell'Ambiente insieme alla società Igeos per la mappatura dell'intero territorio nazionale, e questo sicuramente sarà un primo passo verso una prevenzione. Ma lì la chiave è capire se ci sono, se sono in atto degli inizi di frana, se, esatto, cioè, è la mappatura ed è iniziata adesso? Adesso praticamente andremo a concludere il progetto nel maggio 2010, quindi fra pochi mesi. Ecco, questo cosa vuol dire? Che nel maggio 2010 sapranno, i geologi avranno la mappa dell'Italia e sapranno se, come, dove intervenire se la Terra si sposta. Esattamente, questo sarà un altro layer, per dirla diciamo come gli esperti di GIS, per andare a identificare quelle che sono le zone a rischio. Sanno Mangiaterra ha preparato una scheda che fa un po' il... No, perché è assolutamente un tema centrale nel nostro paese, questo della prevenzione e del monitoraggio del territorio. Infatti noi andiamo subito a capire quali sono i termini. L'ultimo drammatico episodio è quello di Favara, in provincia di Agrigento, dove una casa è crollata seppellendo due bambini. Ma di casi del genere, purtroppo, se ne contano a decine. Le frane di Sarno, quella recente di Messina. Senza dimenticare il terremoto dell'Aquila. In un paese come l'Italia, dove stando ai rapporti della Protezione Civile, 7,5 milioni di abitazioni private e 70.000 edifici pubblici si trovano in zone a rischio sismico, e 5.596 comuni, quasi il 70% del totale, sono interessati da processi franosi, il monitoraggio del territorio è la migliore forma di prevenzione. Le tecnologie oggi consentono l'acquisizione di informazioni con precisione millimetrica. Un esempio è rappresentato proprio dai sistemi messi a punto dalla 3 per raccogliere, decifrare e interpretare le immagini provenienti dai radar satellitari. Il problema, ovvio, è di mancanza di risorse e, perché no, di scarsa volontà politica. Qualcosa comunque si sta muovendo. La stessa 3 sta partecipando alla mappatura dell'intero territorio nazionale per conto del Ministero dell'Ambiente. Un primo passo per evitare disastri. Allora, prima di entrare nel merito, c'è una domanda di Vincenzo da Parma che dice: ma il satellite non può sbagliare, cioè non può scendere di quota, salire di quota? Allora, ovviamente è difficile entrare nei dettagli dell'algoritmo utilizzato per anche epurare tutti i dati da questi effetti spuri. È noto che i satelliti si muovono, quindi se uno pensa è possibile ritornare a livello millimetrico sullo stesso identico punto di osservazione a distanza di un mese su Milano? La risposta è no. Però un po' detto in parole povere, il segreto è fare misure differenziali, cioè noi non vogliamo in assoluto capire come si muove il tetto di una certa casa, ma semplicemente sapere se la tua casa si sta muovendo rispetto all'altro edificio di fronte, ecco, perché è quello che poi ti crea qualche problema a livello strutturale. No, ecco, allora questo problema, scusi Ferretti se ritorno alle episodi recenti, insomma, no? Per esempio la frana di Giampilieri, lei stessa l'aveva citata, la frana di Sarno, lì c'erano stati in tante zone, purtroppo quelli sono episodi drammatici, ma in tantissime zone, abbiamo detto il 70% dei comuni italiani è in qualche modo soggetto a frane, no? Episodi franosi. Ci sono dei processi franosi che vanno avanti per decenni, no? Ecco, allora è possibile a un certo punto, lo so che lei fa l'ingegnere, ma parliamo per i nostri ascoltatori, che è possibile, fosse un insulto, cioè. No, perché lui aveva precisato prima, no? Non spetta a noi, no? Ovviamente, ma sarebbe possibile dire adesso questo paese, questa zona è davvero pericolosa e quindi prevenire il disastro, per esempio con l'evacuazione di un territorio, oppure mettiamo il Vesuvio, no? Che è si dice, no? Che è una sorta di bomba, no? Orologeria. Ecco, tutto questo sarebbe possibile grazie anche ai vostri strumenti? Ma sicuramente sì, diciamo non è la panacea che risolve il problema del dissesto idrogeologico italiano, ma è un importante elemento, lo definirei così, che può aiutare sicuramente la mappatura del territorio. Poi si passano questi dati a chi di dovere e di fatto diventa un problema anche politico, diciamo, decidere se una certa area diventa o meno edificabile, se bisogna evacuare o meno. Non trascinare un ingegnere sui temi politici, che è un errore strategico. Nova Lab 24. Rieccoci, Nova Lab 24. Teo da Milano domanda: ma insomma non serve il satellite, cioè basta usare i tecnici comunali, le persone, fare controllare gli edifici, è così? Ma ritengo che sia un po' improponibile controllare la stabilità di tutti gli edifici di tutta Italia in tempi ragionevoli. Quello che può dare la mappatura satellitare è un primo screening, una prima selezione di quelle che sono le aree più soggette a movimento. Ecco, questo sì, e mi sembra abbastanza ragionevole cominciare da qualcosa di concreto che sia una misura oggettiva rispetto al punto in alto a sinistra nella mappa. Quindi anche una gradazione del rischio, insomma. Il rischio, ancora una volta, è una parola legata all'interpretazione del dato, però sicuramente possiamo mettere in evidenza su Roma quali sono i quartieri dove c'è più moto e quindi di conseguenza dove sono più probabili, insomma, le problemi di dissesto. E ad Haiti che sta succedendo? Cioè vi hanno contattato gli americani? No, com'è che funziona? Allora, ad Haiti è una assolutamente qualcosa che abbiamo deciso in maniera autonoma, diciamo per motivi umanitari, volevamo fare qualcosa, abbiamo richiesto dei dati in questo caso all'Agenzia Spaziale Tedesca e alla società Infoterra, ci hanno dato questi dati, abbiamo elaborato gratuitamente questi dati, abbiamo messo in evidenza un campo di spostamenti dovuto al terremoto, diciamo, del 12 gennaio scorso. Questi dati sono stati passati al Seismolab di Berkeley e poi all'Università di Miami e poi al JPL perché c'è stato un tam-tam e adesso sono stati inseriti all'interno di un website, diciamo, su Haiti che stanno approntando proprio in questi momenti. Haiti, il terremoto ha fatto un disastro e va bene, ma al di là del disastro direttamente collegato alla scossa sismica, alle scosse sismiche, adesso da questi dati che cosa emerge, per esempio? Allora, intanto si mette in luce la zona che ha subito il maggiore spostamento e quindi dove è la faglia sismica che effettivamente ha scatenato il tutto. Poi, dalla deformazione superficiale, i geofisici cercano di capire qual è la dinamica sottoterra e quello che sta probabilmente continuando a succedere perché abbiamo visto un altro magnitudo 6 e così via. Pierangelo Soldavini ci ha raggiunto silente qui in studio, vice caporedattore di Nova 24, e ci racconterà che cosa succede domani su Nova 24. Ricordiamo l'inserto di scienza e tecnologia del Sole 24 Ore. Cambiamo un po' temi rispetto a quelli che stavamo affrontando finora, parliamo di media e di tempi di permanenza sui vari media. Forse tu, Luca, puoi essere più preciso visto che la copertina l'hai scritta tu, però insomma sono un enigma continuo, nel senso che già quando c'era la televisione, c'era l'Auditel, ci si litigava su i vari canali, così adesso che i media sono aumentati, c'è la televisione, c'è internet, c'è la radio, c'è la carta stampata, diciamo è un bailame ancora più grosso, e quindi pubblicitari, industria di contenuti, così sono, cercano sempre di capire chi usa che cosa, per quanto tempo, che cosa ci fa, e così. Noi abbiamo dato un piccolo contributo? Sì, beh, noi ci siamo anche divertiti ad andare a capire quanto tempo siamo esposti ai media, per cui abbiamo incrociati 5 o 6 ricerche e insomma abbiamo sfatato un po' di miti, abbiamo scoperto un po' di cose. Innanzitutto per alcuni mesi, anzi per un anno, si è detto internet, l'audience di internet sta crescendo, non riusciamo a controllarla, tutti andremo su internet, la TV generalista è morta, la TV di flusso è morta. Non è vero. Questo mi sembra la cosa più sorprendente. C'è un riquadro in copertina che dice il tempo mediatico, il 60% è la televisione. Sì, tre ore e mezza al giorno la passiamo sia in Italia che all'estero davanti alla televisione. Tra l'altro anche gli adolescenti, questi alieni, no? Se era stato detto, loro vivono tra più schermi, passano la tempo y con... va in televisione. Guarda la TV. Banalmente perché? Perché è semplice, perché sei stanco, ti butti su un divano, l'accendi e magari fai altre cose contemporaneamente, ed è forse quello che sta accadendo. Ma anche negli Stati Uniti? Ma soprattutto negli Stati Uniti. Pensate che negli Stati Uniti una ricerca di Nielsen ci dice che gli adolescenti, per cui dai 12 ai 18 anni, addirittura stanno meno tempo internet degli adulti. Addirittura stanno meno su più schermi. Si era detto sono multitasking, non è vero, una piccola minoranza, quella che poi fa notizie, è assolutamente multitasking, va davanti alla televisione col telefonino, schiaccia un sms e poi contemporaneamente scrive su Facebook, ma insomma sono miti sostanzialmente. Io ricordo che c'era stata una ricerca di Microsoft che aveva annunciato il sorpasso di internet a livello di ore rispetto alla televisione per il 2012. Ah beh, certo. Forse 2012, come diceva, forse era un po' di parte. Un po' di parte, sì, ma ci è piaciuto per un certo periodo dire questa cosa. Di fatto molto probabilmente quello che dicono gli esperti, non dico io, è che il nostro consumo mediale sarà molto spezzettato, cioè guarderemo i giornali, guarderemo internet. Ma poi posso aggiungere una cosa, cioè magari guardiamo internet e guardiamo i giornali su internet, o guardiamo la televisione e in realtà guardiamo internet, per cui ormai il mezzo non è più il contenuto, ecco com'è. E soprattutto diciamo che è andata in crisi l'idea che con un media solo li becchi tutti, cioè quello che veramente è andato in crisi è il fatto che negli anni 50 davanti alla televisione beccavi il nonno, il papà e il figlio. Questo non è più così, per cui attenzione pubblicitari, industria dei contenuti, state all'occhio, perché è più complicato il gioco, nel senso che adesso devi raggiungerli in modi molto più complicati. Non siamo solo noi giornalisti che dobbiamo reinventarci un universo, insomma. No, direi proprio di no. Io devo ricordare che la trasmissione è in diretta in streaming sul nuovo sito di Radio 24 e che esiste un podcast di Radio 24, arrivate, lo potete cliccare, anzi tutti i programmi di Radio 24 24 sono in podcast e sono in streaming. Noi in più ci abbiamo anche il Twitter, lo dico all'ingegnere che è più avanzato, per cui dal Twitter noi riusciamo a comunicare un po' con gli ascoltatori e con... Magari attraverso il radar arriveremo chissà anche a ET, insomma. Esatto, cioè, Mangiaterra che la butta sempre lì. Mi piace sognare. Oggi stasera appuntamento col tablet, vediamo di capire via internet, leggeremo una rivoluzione, domani. Un punto di domanda, vedremo. Tanto l'appuntamento è domani, ringrazio i nostri ascoltatori, ciao a tutti, ringrazio gli ospiti, a domani.